Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Trovati all'appuntamento con il Matteo Risponde, giornatuccia bella e impegnativa. I dreamed of something Augustine, life is you or me, tearing to these quarters in the utmost misery. No, è inutile discutere delle considerazioni che sono state fatte dal presidente D'Alema. Cioè, c'è chi ancora non ha digerito di aver perso le primarie. Si chiama democrazia. Ci sono stati 2 milioni di italiani che sono andati a votare e hanno votato perché io diventassi segretario del PD. A fronte di questo risultato, nessuno è un usurpatore. Hai preso la guida del PD e la restituirai alla fine del mandato. Luca Angei, quanto hai preso Matteo non lo dico perché sennò faccio il fighetto. Invece posso dire che all'esame dell'università la tesi credo di essere uno dei pochi in Italia che ha litigato in serie di discussione di tesi. Insomma, mi hanno detto c'era da fare la discussione, io ho fatto la discussione, litigato violentemente e infatti ho preso 109, sono tra i pochi che è uscito dall'università italiana con 109. Ehi, fermi lì, questo Stefano Lepori mi dice Lepori o Lepori gobbo. Non so se si riferisce all'aspetto fisico, se si riferisce all'aspetto calcistico, ha sbagliato commento, anche se adesso devo dire, per chi come noi non ha mai tifato Juve, avere quelli lì dietro è una bella sicurezza, c'è qui un po' di gente, un po' juventini, che Filippo Sensi, Gigi Marattin, che esultano, ma dato di fatto, cioè Buffon, Bonucci, Chiellini e Barzagli, proprio male male male non ti senti, Ve lo ricordate ieri cosa ho detto? Proprio qui alle 6.30. Ma Matteo Risponde che fine ha fatto? È iniziata una nuova era di un Renzi un po' più umile, più compassato, più tranquillo, più sereno? Oh ragazzi, l'ho chiamato. Ieri è comparso Matteo Risponde. Ho creduto troppo in me. Sì. È tornato. Gente che gli dà del gobbo, cioè dello juventino. Gente che gli chiede delle tasse, gente che gli chiede di D'Alema. E lui che fa? Rispondi, Matteo Risponde, è tornato, Matteo Rispondi. Buongiorno a tutti, signori. Come ci scrive Simone, primo momento decisivo della giornata, ascoltare 24 mattino. E qui ci siamo, alle 6.33 minuti. Rispondi. Come sei, con chi vai, chi si prende la mia voglia di te, rispondi. Io vorrei suggerire a Maurizio Bianconi, che saluto, onorevole Bianconi. Buongiorno. Vorrei suggerire a Bianconi di, in uno di questi Matteo Rispondi, di farle qualche domanda a Matteo. A Matteuccio non gli si può domandare nulla. Ma non è vero. Perché e risponde come gli pare. E vabbè, certo, che deve fare? Uno fa la domanda e suggerisce anche la risposta. No, e delude sistematicamente l'interrogativo, perché come uomo comunicatore, insomma, ci sa fare molto. È un bar dello sport raffinato. Ah, ecco, quindi. Devo dire, dovrebbe farlo con degli alias, perché lui ha detto: io non rispondo ai giornalisti, non rispondo ai politici, perché a quelli rispondo durante le conferenze stampa. Ah, ecco, appunto. Oppure viene in Parlamento, fa tutta la sua tirata, quindi si cava dalle scatole per non più peggio e non sente neanche le risposte. Vabbè. Comunque, torna un po' la politica, insieme a Maurizio Bianconi abbiamo Umberto Brindani, direttore di Oggi, eccolo qui, che ieri ha fatto una cosa di un'irriverenza. Buongiorno, direttore. Buongiorno Alessandro, buongiorno Bianconi. In prima pagina, in copertina di Oggi, una roba veramente... Cioè, praticamente hai cacciato i reali inglesi. No, cos'è che hai messo? Ciao Principino, il povero Principino. No, ma soprattutto con il timbro extracomunitario, ormai si sono espulsi da soli, quindi ormai anche la parola extracomunitario va applicata anche a loro. Mannaggia, no? Vabbè, insomma, hai proprio sfogato tutta la tua rabbia. È partita la partita, la sfida Italia-Germania è già cominciata, iniziamo con le banche, poi sabato ce la vedremo a calcio, ma siamo un paese così. Ieri Matteo ha risposto anche alla Merkel. Sì. Ha ricominciato a rispondere. Sì. Matteo è ribasso, quindi da cazzotti in qua e là, vedete. Che chiappa con un calzotto, dice, come il pugile che sta barcollando all'ultimo round. Si chiama il colpo della domenica, no? Quello che casualmente mette KO il pugile vincente mentre lo sta dando quello che perde, no? A casa. Vabbè, Bianconi lo vede così, lo vede un po' barcollante. Andiamo a aprire. Lo vedo barcollante. Va bene, apriamo il Parlamento allora. Si può aprire adesso il Parlamento? Sì. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. C'è il ministro Boschi, va a prendere un caffè, l'attendiamo qua. Non so se hai capito che è il ministro Boschi, Brindani, è la nostra sigla da 3 anni, adesso vado a prendere un caffè, è il ministro Boschi, ci vediamo più tardi. E non è la Sabina Guzzanti, no? No, è il ministro Maria Elena Boschi. Allora, Brindani lo vedi davvero barcollante? Io, certo, dopo le amministrative c'è stato un periodo in cui era tutto un po' più schiscio, si dice a Milano, no? Cioè più tranquillo, più... No, ha ricominciato a muoversi, ha ricominciato a fare politica, come si dice, ha cominciato ad aprire, come si dice, spiragli, no? Spiragli sull'Italicum, sulla legge elettorale, ha ribadito che lui si dimetterà perché non è un pollo da batteria se dovesse perdere il referendum, si sta muovendo, insomma. Ma infatti almeno la coerenza Bianconi gliela concede a Renzi, cioè che non sta cambiando sul referendum. Lei vuole scherzare, è uno che fino a 5 minuti prima diceva a letto: stai sereno, mai ti prenderò, mai ti caverò il posto. Lui è esattamente il contrario della coerenza, è il classico, sì, lo dico in senso buono, è il classico figlio di puttana, cioè è uno che fa quello buono, che vuole, è quello che fa quello che vuole e dice quello che gli pare. È uno che ha preso, è andato a come detto, a marzo vi cambio la giustizia, a aprile vi cambio l'amministrazione dello Stato, a maggio vi cambio le istituzioni, insomma. Però diceva sul referendum, però effettivamente se perde mi sa che la mantiene questa cosa. Ma nessuno vuole che vada via, perché è una cazzata vera, nel senso che il referendum è un referendum sulle regole. Sulla Costituzione, sulla Costituzione. Esatto, non su lui che è bello o brutto, perché è un... Quindi se le regole che ha inventato lui e la signora fanno schifo come fanno schifo, gli italiani diranno che fanno schifo, come quelle che le aveva detto che Berlusconi alla persona che Berlusconi aveva referendum. Ma guarda che cita Berlusconi, adesso ce n'è da dire su Berlusconi. Oggi i giornali ne regalano. Sì, va bene, ma parlo di questo. Anche Berlusconi perse il referendum. Sì. Ma non aveva detto me ne vado, ma è lui capito, Renzi che ha detto me ne vado, cioè non è che... Ha detto una delle tante sue cassate, e non se ne deve andare. Non se ne deve andare. Brindani, vabbè, adesso... Vabbè, questo è il processo di intenzioni, insomma, lui continua a dire che se ne vada, ha ridetto anche ieri, chiaro e tondo. Vorrei capire cosa pensa Bianconi, cioè se lui perde resta lì e si rimangia tutto quello che io penso che lui siccome stare al potere diverte parecchio, sì. Io penso che lui se perde il referendum, nonostante che abbia detto se ne va, rimane perché è logico che rimanga, ma rimane perché vuole rimanere. Sì. Ma dovrà fare una capriola. No, dire gli italiani me lo chiedono, l'Europa c'è questa cosa da fare. No, in fondo capito, forse esageravo. Te lo vedi Brindani Renzi che si presenta per parlare agli italiani, si presenta e dice forse ho esagerato. Di campagna, mi hanno portato a Roma, mi sono intervenuto un po'. Sì, me lo vedo. Però mi sa che glielo chiederete voi in Parlamento. Perché tanto 7, se lui va via. Non è che Mattarella ci manda a votare. Vabbè, lo stipendio ci diciamo dal 2018. Ci siamo portati avanti con degli scenari che chissà così. No, io vorrei capire però, direttore, allora qui non è questione di tifare né Italia né Germania, non è una partita di calcio, è una partita molto seria. Dopo la Brexit le nostre banche sono lì. Allora la questione è molto semplice. Renzi dice possiamo applicare il trattato, ma che prevede di non applicare il bail-in, sospenderlo in casi eccezionali, la Brexit lo è, eccetera. E la Merkel dice noi non è che ogni due anni possiamo cambiare le regole, le abbiamo fatte, insomma ci richiamo un po' all'ordine. Ho capito, ma mica tutti i giorni va via l'Inghilterra. No, infatti. No, io vorrei parlare per un attimo seriamente. Sì. Io vorrei che Renzi mi spiegasse una cosa che non ho capito, cioè se da un lato lui dice che il sistema bancario italiano è in sicurezza, è solido, l'ha ripetuto anche ieri, poi sta muovendo per cercare di eliminare il famoso bail-in. Allora io vorrei capire se il sistema bancario italiano è solido o non è solido, perché due l'una, o ha ragione la Merkel, quindi non si tocca niente, oppure bisogna toccare qualcosa perché il sistema bancario italiano non è così tanto solido. Questa è la cosa che... Sì, cioè, tu, quale tu Matteo... noti una contraddizione, nel senso, dire il sistema bancario è solido, che è detto anche giustamente per rassicurare tutti coloro che hanno i soldi in banca, e però allora perché c'è bisogno di mettere in campo degli eventuali piani B per puntellare le banche? Effettivamente la domanda potresti mandarla a Matteo risponde. Il sistema italiano non è solido, costa certo. Poco, lo sanno tutti, ci dicono così, fanno bene, che devo dire, sennò come fanno a fregarci? Vabbè, ho capito. il problema è che tante volte quando facciamo questi ragionamenti ci sfugge un dato, che una cosa è la politica e una cosa è la finanza. Quando è fallita Lehman Brothers, fino alla sera prima, tutti dicevano che tutto il mondo era in assoluta ascesa, che c'era una previsione di aumento del 2,7%, e la mattina dopo eravamo tutti rovinati. Quindi dal mondo finanziario lei mai avrà un discorso in cui si è in debolezza, ma il sistema bancario italiano non solo in debolezza, ma se c'è Soros che gli ha voglia la mattina di staccare un assegno da 5-6 miliardi, si compra ogni cosa, che vale anche poco il sistema bancario italiano. E questo è un ragionamento. Il bail-in è un'ingiustizia totale, perché io, se la gente non sa cos'è, questo è il casino. Io metto i soldi in banca perché me li deposito. Sì, votato da tutti. Io l'ho votato. Ho capito. La gente vota perché dico rosso, verde, e fanno un cazzo quel che votano, perché non leggo niente. Allora, non solo, i soldi nostri quando lei li porta nel conto corrente con questo cazzo di pedine, non sì. sono più suoi, sì, sono sì. della banca. Se, su, se si supera la... i 100.000 euro, se si supera no, i 100.000. No, beh. C'è una definizione, i soldi che lei porta nel conto corrente non sono più suoi che la banca glieli amministra, sono della banca. Nel caso di... No, sempre, anche se poi fino a 100.000 dollari, fino a 100.000 euro gli garantiscono la vettura. E dopo no. È questa cosa che è un esproprio, un esproprio. Vabbè, Brindani, insomma, Bianconi dice io non l'ho firmato il bail-in, però l'ha firmato il Parlamento, l'ha ratificato il Parlamento italiano, insomma, c'è adesso di notte, una cosa strana, poi si sono pentiti, continuano a pentire tutto quello che fanno, insomma, no, su questo davvero ci vorrebbe chiarezza, leggessero un po' di più quando gli arrivano sotto mano le cose, insomma, invece di approvarle così a caso. Comunque c'è da chiarire anche una questione politica riguardante Silvio Berlusconi. Allora, io voglio andare al traffico perché qui la questione si fa molto seria. Oggi parla Confalonieri, parla con la stampa. Qui abbiamo Maurizio Bianconi che Berlusconi lo conosce molto bene. È stato con lui tanto tempo. Adesso non sono più politicamente molto molto vicini, diciamo così. Ma oggi Confalonieri sulla stampa dice in pratica: Berlusconi torni alla politica e appoggi Renzi. Aspetti Bianconi, ce lo dice tra un attimo dopo il traffico. Una sorta di nuovo patto del Nazareno, tra poco. Da parecchi anni sento dire ai politici diminuire le paghe, le pensioni d'oro, 30 anni che lo sento dire, ma mai l'hanno fatto, perché quella gente è disonesta, vile e ladra. Milan, è ora di cambiare. Ma chi se ne frega? Con ma chi se ne frega? Milan, i quotidiani senza te sarebbero una gran noia. Milan, basta con questo Vendola. Milan, ne scrivono di cagate i giornali, ma anche te a leggerle, per piacere, per piacere. Vabbè, non vi riferite ovviamente a Oggi, di cui abbiamo il numero uno, il direttore Umberto Brindani. Grande fiducia dei giornali. Devo dire che gli ascoltatori sono molto affezionati. Faccio una grande propaganda per i giornali. Finita la trasmissione, corrono tutte alla prima edicola. Si fiondano tutto. Le edicole transennate. Esatto, con le file. Ma no, è perché la nostra segreteria, così peschiamo un po' nel mucchio e mandiamo in onda anche i più simpatici, i più provocatori, insomma ci piacciono un po' quelle cose. Allora, caro Brindani, poi sentiamo Bianconi, che Bianconi si sta scaldando su Berlusconi, però Brindani torna al patto del Nazareno, così chiede Confalonieri, insomma la grosse coalizione, si direbbe, allora, in Germania, guarda, così. Io mi ricordo nel 2011, quando Berlusconi fu fatto fuori, che tutti dissero, i giornali scrissero addio Berlusconi, e io titolai copertina, non è un addio ma un arrivederci, perché Berlusconi è l'eterno ritorno, Berlusconi è sempre lì, e il centrodestra è talmente incasinato, compreso in questo anche tutti i movimenti di tutto ciò che si muove nel centrodestra, compreso Bianconi, che c'è bisogno di Berlusconi, e spero che Bianconi lo riconosca e lo ammetta. Figurarsi se lo riconosce. Se lo riconosce. No, il direttore fa confusione fra un federatore e Berlusconi. Berlusconi, quando ha fatto il federatore, è stato indispensabile e ha fatto una cosa storica, ha messo insieme gente che non ci sarebbe mai stata. Poi una bella mattina ha deciso di non farlo più e ha disfatto tutto, facendo un errore politico dietro l'altro e soprattutto privilegiando in maniera sconsiderata a questo punto interessi aziendali rispetto agli interessi politici. Vabbè, ma questo l'ha fatto fin dal primo minuto Bianconi. Hai ragione, direttore, però prima ci stava. Attenzione, hai ragione, direttore. Ha ammesso Bianconi dopo 20 anni che Berlusconi ha fatto i suoi interessi. E io mi chiamo di Forza Italia, io ero d'Alleanza Nazionale. Vabbè, lo sapevo bene. Capito. Lo sapevo bene che Berlusconi faceva anche i suoi interessi, anche. Però c'era compatibilità fra la questione politica e la sua questione aziendale. In più lui ha avuto la sfortuna, barra fortuna, di essere perseguitato dalla magistratura. Quindi tutte le volte che qualcuno avesse voluto brontolare su quello che faceva, c'era subito la solidarietà. Ma adesso torna al Nazareno? No, Nazareno non è mai andato via. È vero che Bianconi considera Verdini in realtà uno che fa finta di litigare con Berlusconi, per mantenere l'avanguardia di Berlusconi, l'attavo di Berlusconi, che d'accordo con Confaroniere e con Letta, più che con Berlusconi, hanno preso alcuni e è andato avanti a dare i voti che c'è bisogno di dare. Senza sputtanare eccessivamente Forza Italia. Capito, Brinari, c'è un ascaro insieme a una sì, certo. Io vorrei capire una cosa. Oggi, se non Berlusconi, chi può essere leader del centrodestra? Nessuno. Brunetta? Nessuno. Brunetta. Nessuno. Però io... nessuno lo liquida così, nessuno, niente, andiamo a morire, nessuno. Ma avete una furia, scusate, perché quello che ha detto il direttore, seconda volta che gli do ragione, che in centrodestra il casino è generale perché manca il federatore, e come voi sapete in centrodestra ognuno è il duce. Io faccio un movimento, voglio fare il leader di tutto, io ne faccio un altro, ce ne sarà 2000 di movimenti e gente che si muove. Quindi quando saranno mature le condizioni per un federatore ci sarà, prima ci vuole un progetto. Il progetto viene fatto soltanto se Berlusconi se ne va, cioè va a fare quello che è deputato a fare, la spalla di Renzi, perché Mediaset così vuole, perché Renzi gli ha dato Cattaneo a Telecom, perché Renzi gli ha dato il duopolio, gliel'ha garantito, sì. Perché Renzi si augura un po' che questo Nazareno, che per lei comunque c'è, sia manifesto, sia lo dichiari. Ieri hanno votato il documento per l'Europa, sia al Senato che alla Camera, ormai sono in piena rotta di avvicinamento, cioè è un momento di chiarimento e lui smette di fare, come dico io, il cane dell'ortolano. Il cane dell'ortolano. Abbaiava, non mangiava e non faceva mangiare. È stato via. Questa Brindani, il cane dell'ortolano, me la devo segnare. Cioè, non mangiava. Perché il cane dell'ortolano la verdura non la mangia. Ah, certo. Però abbaia e non fa andare la gente a pigliare la verdura. L'orto. Cioè, quindi rimane anche lui cornuto e mazziato, però. Perché... No, faceva il suo lavoro. Lui teneva ferma il centrodestra che non si poteva rinnovare, però teneva il parco lì perché Renzi ci potesse puntare. Brindani, questa del cane dell'ortolano non è male. Del cane dell'ortolano bisogna assolutamente segnarsela. Cioè, perché il cane dell'ortolano fa la guardia, ma poi che mangia? Mica se mangia una zucchina. Mangia la minestra che gli dà il padrone. Che cioè, tristezza, mamma mia. Si mangia cattaneo, si mangia il tuo foglio, si mangia RPS, non sa quanto mangia. A caso, Palonieri è un attento custode degli interessi di casa. Punta. Che buono come Renzi, noi non si ritrova. Brindani, qui è ritornata la politica, vedi che la Brexit poi è durata 3 giorni, ma poi ci siamo ripiombati. Mi piacerebbe sapere cosa pensa Bianconi dell'unico volto nuovo del centrodestra degli ultimi mesi, Giovanni Totti. Totti, come no? C'è un sondaggio che ha stabilito che gli italiani hanno più fiducia in lui che in Berlusconi e Renzi. Ma davvero? Ma Berlusconi e Renzi messi insieme addirittura? Io sono uno che dico che penso, dico quel che penso e faccio quel che dico. Io appena ho visto Totti l'ho soprannominato subito il sergente Garzia, cioè mi sembrava uno che capiva niente, che l'avevo messo lì perché era amico del capo, con quella tutina bianca, ve lo ricordate alla finestra? Io Totti l'ho criticato, l'ho preso, ultimamente devo dire che si sta dimostrando un uomo di equilibrio e che sa quello che fa e quello che dice. C'è l'imprimatur di Bianconi, signori! Non la pensa come me, fa un altro lavoro. Ma se io dovessi dare il governo dell'Italia a Berlusconi, a Toti, lo do a Toti. Oh, attenzione, attenzione. E Berlusconi no, capito? Attenzione qui. Lancio ansia. Tra Frizzi, tra Frizzi e Lazzi alle 6:54 del mattino, ridendo e scherzando, abbiamo trovato il leader del centrodestra. No, non è unito. Un leader perché non è assolutamente, però miseria. Il presidente della Liguria lo fa. Sì, pensavo di essere stato utile per un giorno, no. Guardi che qui, guardi Milan, che qui prima del capitano della nave, bisogna trovare la nave, perché è inutile che si mettano nella tolda di una nave che va a fondo. Cominciamo a rimbullettare la nave, vediamo un pochino di rimettere al sesto e poi vediamo. E poi vediamo, rimbullettiamo, questo, questo insieme al cane dell'ortolano, rimbullettare è la parola del giorno. Va bene, io qua mi devo fermare però, vi fate un pronostico, dai, tanto è il pronostico della settimana, così noi teniamo tutto. Maurizio Bianconi, come finisce Italia-Germania? Faremo la nostra figura, non so come finisce. No, io mi auguro che si vinca. Ma di pronostico così. Può vincere l'Italia. Ci manca il centrocampista, ma può. Vabbè, Brindani, come finisce Italia-Germania? 2-1 per noi, doppietta di Eder. Ma qui questa ce la teniamo. L'interista Eder, capito come si è ringalluzzito Brindani appena vede un interista fare un mezzo dribbling. Vabbè, dai, vi ringrazio e vi abbraccio, alla prossima. L'amore vince sempre sull'invidia e sul... Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Alle 7:18 minuti, eccoci pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. Siamo qui a 24 mattino, è il momento della rassegna stampa e vediamo che cosa ci propongono i quotidiani. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ci siamo, giovedì 30 giugno, praticamente unanime l'apertura dei quotidiani, e cioè il confronto verbale molto duro tra Renzi e Merkel sul tema banche. Per il Sole 24 Ore l'apertura però è sul Fondo Monetario Internazionale, banche tedesche vulnerabili. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, sfida sulle banche tra Roma e Berlino. Renzi, noi in regola. La Stampa, banche, Merkel gela l'Italia, non si cambiano le regole. Per Repubblica, l'Unione Europea a Londra, rischio sospensione, aiuti alle banche, Merkel frena Renzi. Il titolo del Messaggero, banche, duello Merkel-Renzi. E per il Giorno, banche alto là della Merkel. Il Giornale, è già Italia-Germania, la Merkel trucca la partita. Per Libero, Merkel a Renzi, arrangiati. Mentre il Fatto Quotidiano, banche, ONU, migranti, Renzi prende tre sberle. Bisogna, per tornare al tema Turchia, andare su Avvenire, il prezzo del sangue, questo è il titolo di prima pagina, oppure il Manifesto che apre con la polveriera e c'è la foto dell'aeroporto di Istanbul. Così anche sull'Unità, fermateli, e c'è sempre la foto legata al terrorismo. Voglio partire proprio da qui con gli ultimi sviluppi. Beh, non è che si sa molto dell'inchiesta, sapete che in Turchia Ankara ha messo un po' di veti anche sulle dichiarazioni, sulle informazioni per quello che è successo. Quello che si sa, o quello che è trapelato, è che sia stato utilizzato un cosiddetto kamikaze ariete, in qualche modo una persona che si è fatta esplodere permettendo agli altri due di entrare, sfruttando il panico nell'aeroporto e compiere questa strage. L'articolo, al di là dell'inchiesta, al di là di chi sia stato, la Turchia mette nel mirino l'ISIS dicendo è la loro tecnica. Al di là di questo, l'articolo, forse le analisi più interessanti sono, e vi segnalo, a pagina 13 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini con Guido Limpio raccontano il piano sicurezza per i grandi aeroporti. Tutte le volte dopo un attentato del genere si dice ora cosa si può fare. Beh, metal detector potenziati, controlli a stive e servizi di terra, le mosse dell'intelligence saranno queste. Intanto arretrare la zona di filtraggio, predisponendo controlli all'ingresso dei principali aeroporti. Il giorno dopo la strage a Istanbul, i servizi di sicurezza italiani stringono ulteriormente le maglie. La possibilità di un attacco in un aeroporto di grande affluenza era stata data come probabile dai servizi di intelligence europei all'inizio del Ramadan, il 6 giugno, e una ventina di giorni fa l'allarme era stato circoscritto proprio alla città di Istanbul, sia pure senza fornire indicazioni precise sull'obiettivo. Il timore ora che nuove azioni possano essere state pianificate in altri paesi occidentali, senza escludere anche l'ipotesi di attentati simultanei. Le prime informazioni giunte dalla Turchia convergono sulla matrice islamista e sull'ISIS. Allora, cosa si pensa di fare? Intanto il dispositivo di sicurezza in decine di aeroporti è stato potenziato alzando il livello dei sensori dei metal detector, effettuando controlli mirati. Saranno ulteriormente rafforzati i presidi agli ingressi. L'attività dell'intelligence prevede verifiche degli addetti alle stive, al catering, a tutti i servizi di terra per prevenire eventuali complicità. Insomma, diciamo che si cerca di alzare il livello di sicurezza, però è chiaro che una sicurezza al 100%, questo è scontato, non ci potrà essere. L'altra analisi interessante riguarda l'ISIS, la trovate sulla Stampa, a pagina 7, ed è questa. In realtà, in 2 anni di califfato, al-Baghdadi ha perso territorio e miliziani. In 2 anni si è dimezzato il territorio e anche in termini di combattenti. Non ha però perso l'ISIS la capacità di colpire all'estero con cellule organizzate o anche con i cosiddetti lupi solitari. L'attacco a Istanbul sembra esserne la prova. Coincidenza o no, l'ISIS ha fatto strage nello scalo che porta il nome dell'uomo che ha abolito la massima istituzione islamica nel 1924. Insomma, nel giugno 2014 in Iraq le colonne dei pick-up con le bandiere nere attraversavano Tikrit, la folla urlava arrivate a Baghdad. A Baghdad il califfato in realtà non c'è mai arrivato, scrive la Stampa, c'è mancato poco. Di fronte si trova l'America alla guida di una coalizione di 62 stati che appoggia le forze di terra curde e l'esercito iracheno, e anche la Russia con 50 dei suoi jet e elicotteri in Siria a supporto delle truppe regolari siriane e milizie sciite. Risultato, appunto, in termini militari l'ISIS è molto depotenziato rispetto a 2 anni fa, però c'è appunto la capacità di colpire qua e là. Purtroppo pare, se è riconducibile all'ISIS, avvenuto anche a Istanbul. Voglio venire invece a cose italiane di cronaca. Intanto, beh, questa è una notizia che c'è su tutti i giornali, la Stampa che l'ha data per prima la sviluppa anche con un'intervista alla diretta protagonista, riguarda un'adozione di un bambino negata a una coppia perché la donna nella coppia è affetta da un tumore al seno. E allora i giudici di Torino hanno stabilito non può adottare per 5 anni dal momento in cui si è manifestata la malattia. Paola Italiano racconta tutto a pagina 16. È una storia molto complicata, come gli stessi giudici di Torino ammettono. È il caso molto complesso. Hanno negato la domanda di idoneità all'adozione internazionale di una coppia torinese. Bianca, 42 anni, ha infatti un carcinoma mammario, tra l'altro alla terza recidiva. E viene intervistata questa donna che insieme a Sergio, il marito, tiene davvero a questa adozione. Intanto dice: sono logorata non tanto dalla recidiva diagnosticata 2 mesi fa, quanto dal non aver mentito al medico legale. Ma addirittura sì, sono certa che se non avessi detto di mia iniziativa tutto ciò, il medico legale incaricato della visita per l'adozione non sarebbe riuscito a individuare la patologia. Stavo bene da più di 4 anni, gli esami del sangue erano puliti, gli screening strumentali pure. Per troppa onestà, oggi non ho il nulla osta per essere madre. Eppure dico, chissà quante coppie di genitori adottivi si sono presentati alla visita dicendo di essere sani, senza sapere che avevano delle patologie. In fondo, sarebbero mancati pochi mesi per raggiungere i 5 anni, nessuno avrebbe potuto immaginare la mia recidiva. Poi siamo una coppia affiatata, abbiamo il sostegno delle famiglie, nostro figlio non rimarrebbe mai solo, ma immerso nell'amore, anche se un giorno non ci sarò più. Il paradosso, tra l'altro, è questo, di essere considerata troppo malata per essere madre, ma troppo poco per ottenere i permessi di malattia dalla legge 104. Effettivamente questo aggiunge la cronaca un aspetto incredibile, cioè è malata per i giudici tanto da non poter adottare, ma le è stato tolto, le sono stati tolti i 3 giorni settimanali di permesso previsti dalla legge 104 perché la malattia è considerata con un andamento scarsamente aggressivo. Quindi proprio beffa delle beffe, dice questa donna. Un sorriso amaro, in realtà il mio, che nasconde una grande rabbia per una burocrazia con il paraocchi. La cosa peggiore poi è che la relazione del medico legale del Tribunale di Torino, l'idoneità all'adozione me l'ha data, non piena, ma certificando che la malattia non avrebbe ridotto la mia capacità di lavoro e di guadagno e soprattutto le funzioni educative verso la prole adottata. Quando ho letto quella relazione pensavo che l'ostacolo più grande fosse superato e invece no. E invece i giudici negano l'adozione a questa donna. Il caso è su tutti i giornali. Come su tutti i giornali? No, tutti i giornali no, non tutti. Il Giorno, Il Fatto Quotidiano dedicano una pagina alla vicenda di Don Mauro Inzoli, 67 anni, fondatore tra l'altro del Banco Alimentare, figura carismatica di Comunione e Liberazione. Ieri è stato condannato dalla giustizia terrena, la giustizia divina, con la sospensione a divinis era già arrivata dal Papa. Don Mauro Inzoli ora è stato condannato anche in primo grado a 4 anni e 9 mesi, come racconta il Fatto Quotidiano, sto leggendo Davide Milosa, per relazioni sessuali con minorenni. Abusi su 5 minori, condannato il sacerdote di CL. Tra l'altro, 4 anni e 9 mesi, perché la pena è stata ridotta rispetto alla richiesta del PM Di Martino, che aveva chiesto di più, perché le 5 vittime nel frattempo sono state risarcite con 25.000 euro a testa e in più c'è stata la riduzione di un terzo della pena per via del rito abbreviato scelto dal sacerdote. Don Mauro Inzoli, detto Don Mercedes, per il vezzo di, come dire, andare quando era potente in giro in Mercedes, evidentemente. Comunque siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata. Ancora una volta torna l'ATAC di Roma in prima pagina del Corriere della Sera. Sergio Rizzo racconta questa storia surreale, è la storia di un immobile per cui l'ATAC aveva fatto una trattativa d'acquisto da 118 milioni con un anticipo subito di 20 milioni pagati sull'unghia dall'ATAC. Poi a un certo punto questo edificio non viene più comprato dall'ATAC, ma si passa dall'acquisto all'affitto. Lo stop dunque all'acquisto e la transazione per un affitto da quasi 8 milioni di euro l'anno. C'è un piccolo particolare in tutto questo, come hanno denunciato i vertici dell'ATAC portando tutte le carte in procura, la procura di Roma. Questo edificio non è mai stato consegnato, non è mai neanche stato inaugurato. Quindi sono stati spesi 20 milioni di euro intanto per acconto, diciamo così, per un futuro acquisto. Poi l'acquisto è stato tramutato in un affitto da 8 milioni di euro, tutti pagati ogni anno per un immobile mai consegnato. E in più, per non dire, dice Sergio Rizzo, un immobile, secondo i vertici dell'ATAC, che nemmeno serve. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. aggiustiamo gli ombrelli. È sempre se il migliore. Sempre gas, il migliore. La migliore sigla. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Va bene, signori. Allora, c'è da dire che tra Renzi e la Merkel non se le sono mandate a dire. Il tema è quello delle banche, le banche italiane. E eventualmente, se fosse il caso di doverle in qualche modo sostenere, come sostenerle? E qui, visto che da alcuni giorni si parla in Italia di un possibile aiuto pubblico, certo che è negato dall'Unione Europea, ci sono delle clausole che permettono in casi di eventi eccezionali, e la Brexit per il governo evidentemente è considerato un evento eccezionale, di avere delle deroghe appunto su questo. Ecco che tutto ciò crea scompiglio, crea reazioni anche un po' scomposte. Per carità, non vogliamo metterla come qualcuno già fa sul "è già iniziata Italia-Germania", quella è una partita di calcio e la lasciamo lì agli europei. Qui sono cose più serie, più incidenti nella nostra vita, ma certo fa un po' specie vedere questo botta e risposta. Come racconta Gerardo Pelosi a pagina 3 del Sole 24 Ore, Merkel, banche, soluzioni entro le regole. Questo chiede la cancelliera tedesca. E Gerardo Pelosi racconta che Renzi è un fiume in piena, per la prima volta quasi come in un atto di sfida accetta di rispondere senza limiti di tempo a ogni singola domanda dei giornalisti. Ma il risultato finale incornicia molte mezze verità e tanti piccoli comizietti. Matteo Renzi sente su di sé tutto il peso di una leadership indebolita dalle ultime amministrative, ma che proprio dalla gestione della Brexit potrebbe risollevarsi, trarre nuova linfa. Si difende attaccando il premier italiano. La cancelliera tedesca Merkel mette un freno alle ipotesi di deroghe al bail-in per le banche italiane, dicendo: abbiamo lavorato per darci regole comuni su risoluzioni e ricapitalizzazioni delle banche, non possiamo cambiare le regole ogni due anni. E allora ecco che Renzi replica: non siamo venuti a Berlino, a Bruxelles, per farci dettare la lezione o chiedere qualcosa alla Merkel, non chiediamo deroghe. Sorrido perché qualcuno dice: Renzi pensa alle banche, sono costretto a farlo e di tutto mi sarei occupato meno che di istituti di credito, perché conosco le banche solo per i miei mutui. Io appartengo alla lobby dei Boy Scout, una lobby forte, ma solo quella. E insomma Renzi dice: non chiediamo deroghe, però lo scontro c'è. Tra l'altro Mario Sensini sul Corriere della Sera, pagina 3, racconta dell'iniezione da 5 miliardi per il Fondo Atlante, quello è l'obiettivo del governo per smaltire le sofferenze. C'è il dialogo con la Commissione Europea che va avanti, sempre il Corriere dice che Renzi chiederebbe un appoggio molto stretto da parte di Juncker, capo della Commissione Europea, che sarebbe pronto a dire: ti aiuto io in questa partita difficile. D'altronde la direttiva europea prevede esplicitamente la possibilità di un sostegno finanziario pubblico straordinario alle banche, se necessario per preservare la stabilità finanziaria. Il governo si riserva di usare tutti gli strumenti a disposizione, le garanzie pubbliche su azioni e obbligazioni di nuove emissioni e sugli strumenti di liquidità forniti dalla BCE. Nel frattempo il primo obiettivo è quello di ricapitalizzare Atlante, fondo creato poche settimane fa, che ha già speso però 2,5 dei 4,2 miliardi in dotazione, quasi tutti per salvare Popolare Vicenza e Veneto Banca. Oggi quindi ad Atlante restano 1,7 miliardi di euro e il piano del governo è quello di prevedere un'iniezione di capitale per almeno altri 5 miliardi da usare stavolta per acquistare le sofferenze che pesano sui bilanci bancari. Insomma, questo è il piano secondo Mario Sensini del Corriere della Sera. Certo, la partita è molto molto importante. Per quel che riguarda l'altra partita, sullo sfondo ovviamente c'è la Brexit e ogni giorno si racconta dei movimenti, i tempi, quali saranno le possibilità. Interessante l'analisi posta da Luigi Offeddu a pagina 8, sempre del Corriere della Sera. C'è un modello Norvegia che si vede all'orizzonte per il Regno Unito, almeno questo è quello che vorrebbe Londra, e cioè questo uscire dall'Unione Europea, come hanno chiesto i cittadini britannici, stare però alla finestra senza fare politicamente parte dell'Unione Europea, parteciparne però a molti dei benefici economici e commerciali del mercato unico, quasi come la Francia o la Germania, senza però rischiare il salto nel recinto della moneta unica, l'euro. Insomma, la sigla sarebbe SEE, come vedere, SEE, in realtà è l'acronimo in italiano di Spazio Economico Europeo, che oggi lega Bruxelles a tre paesi, la Norvegia, l'Islanda e Liechtenstein, trovare questa formula per la Gran Bretagna, e cioè stare fuori dall'Unione Europea, ma mettersi d'accordo per tutti i benefici economici e commerciali. Certo, l'Unione Europea ci sentirà da questo orecchio, questo bisognerà capire. Però che possa essere anche un'occasione per il sistema Italia, la Brexit, beh, anche oggi il Sole 24 Ore lo scrive chiaramente. Ho trovato anche questo trafiletto di Corinna De Cesare sul Corriere a pagina 11, e dice: Ryanair sposta gli investimenti previsti per il mercato inglese in altri paesi, compresa anche l'Italia. E così, per esempio, 15 dei 50 nuovi Boeing in arrivo nella flotta della compagnia low cost inizialmente destinati ad andare in Gran Bretagna verranno spalmati tra Italia, Spagna, Grecia, Germania e altri mercati. Insomma, è una notizia, così come scrive sempre il Sole: Vodafone potrebbe lasciare Londra. Per andare dove? Non lo so, tanto lo chieda Mauro Meazza, che sa tutto lui. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Beh, sì, su Vodafone non so ancora, non posso dire ancora nulla. Ah, diciamo, cioè sai, ma non puoi. Vabbè. Beh, certamente. Mantieni certamente, un riservo. Alla riservatezza. Oggi è giovedì? Oggi è giovedì, sì, non hai sbagliato. No, perché sai, è un po' un periodo di incertezze, come sai, perché infatti sul Sole 24 Ore presentiamo anche oggi queste pagine di approfondimento del dopo Brexit, che abbiamo significativamente sottotitolato l'estate delle incertezze, quindi anche sulla data, proprio sul giorno della settimana sono incerto. Ma no, fuori di Celia, non posso sbagliare, giovedì, perché c'è Casa 24, ad esempio, con il Sole 24 Ore, questo segna sicuramente il fatto che sia giovedì. Ti voglio dire che, come già ti preannunciai ieri, è stato votato definitivamente il decreto legge cosiddetto banche, che però contiene, tra le altre cose, ti segnalo, le modalità di rimborso per gli obbligazionisti che sono purtroppo caduti nel fallimento delle quattro banche, e anche tutta una serie di modifiche per il recupero dei crediti. Il patto marciano, non sei preparato, lo no. So, però se tu vai sul Sole 24 Ore di oggi, vabbè, lasciamo stare, sì. Se tu vai sul Sole 24 Ore di oggi e non ti fermi a pagina 10, dove troverai il riassunto di tutto ciò che sta nel DL Banche, ma vai anche alla prima pagina di norme e tributi, poi troverai anche gli approfondimenti appunto sui beni del debitore, quindi come funziona il recupero del credito che il debitore non onora, e anche appunto sul patto marciano che tu ancora continui così a trascurarmi. Vabbè, ma non importa, oggi mi sento buono, mi sento amico come le cartelle di Equitalia. Sai che le cartelle Equitalia lanciano un'operazione cartelle amiche, e sono 300.000 circa, che conterranno anche il piano di rateazione, cioè se ti chiedono appunto di saldare il tuo debito con il fisco, però ti segnalano anche che puoi pagare a rate e fanno già una proiezione delle rate. Per questo cartella amica. Ti ha scritto mica invece l'Agenzia delle Entrate? No. Non ti ha scritto? Fino a oggi no, cioè fino a ieri. Ma come mai? Questo fatto non me lo spiego, devo fare delle verifiche. No, ci sono anche lì invece delle lettere queste sono appunto, invitano a verificare se per caso non ti fossi scordato qualcosina nelle dichiarazioni dei redditi. Può capitare, non è che non dobbiamo colpevolizzare alcuno. Comunque ti segnalo ancora dal Sole 24 Ore, ti ho già detto di Brexit, sono incerto, vedi sì. Che sono incerto, vabbè, di Brexit parliamo di borse e di valute, ma anche di Erasmus oggi, che succede ad Erasmus, ai corsi Erasmus, ma per il momento andiamo avanti così, poi si vedrà, che è un po', mi sembra la cifra anche della, come dire, sì, della, ma tranquillo, inglese. Sei fuori età per l'Erasmus, Mauro, no? Sono... Vabbè, questo però è meno carino della presentazione che mi hai fatto in questi giorni. Comunque va bene, lo accetto, perché effettivamente è un dato di fatto. Ti segnalo che invece si prevedono, da parte delle case che costruiscono automobili, che al 2030 ci saranno più auto elettriche che diesel in circolazione. Ah, questa è una bella, è una interessante notizia. Leggi sul Sole 24 Ore la pagina di commenti, guarda, è spiegato tutto lì. E poi, già che ti trovi da quelle parti, se puoi mostrare agli ascoltatori la vignetta di Domenico Rosa. Eccola. Sul pasticcio delle banche, Beh, bella, in materia europea. È molto bella, vero? Credo che anche gli ascoltatori la stiano apprezzando molto. Apprezzato tutti. Va bene, allora a questo punto lasciamo gli ascoltatori con la vignetta di Domenico Rosa e noi naturalmente ci sentiamo domani. È chiaro. Per il momento. Traffico! Alessandro Milan, l'attaccare dell'informazione. E vabbè, grazie caro ascoltatore al 349-238-6666 le vostre sigle. Attaccare! Ecco, per l'appunto, questa era quella da cui ha mutuato la sua il nostro ascoltatore. Allora, ci sono alcune notizie interessanti di politica che riguardano da una parte il Movimento 5 Stelle e dall'altra Berlusconi e il centrodestra. Movimento 5 Stelle, c'è cioè una lunga intervista al Giornale di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Tante affinità tra noi grillini e gli elettori di centrodestra, questo è il titolo, Giuseppe Marino lo intervista. Per la verità Di Maio premette: non credo più all'esistenza di elettori di centrodestra e centrosinistra, esistono persone che si sentono di centro di destra e centrosinistra e istanze di categoria che prima si riconoscevano in uno schieramento ma che si sentono abbandonate da chi doveva interpretarle. Poi parla anche di Europa, i vertici europei vogliono una cacciata rapida degli inglesi come ripicca, vogliono colpirne uno per educarne 100. Noi abbiamo votato con Farage contro questa intimidazione. Perché non deve esserci un'uscita morbida? L'Italia invece può cambiare l'Unione Europea dal di dentro. L'idea di Di Maio è fuori dall'euro ma dentro l'Unione, con un fisco più amico delle imprese, più rigore sull'immigrazione. Questa è in estrema sintesi la fotografia che fa in questa intervista il Giornale, e poi definisce il PD un partito ipocrita, questo Di Maio. Qualche problemuccio però al Movimento 5 Stelle arriva per le giunte. Beh, a Roma si è detto è una giunta che fatica a essere formata ma dovrà essere presentata, così almeno dice Di Maio, il 7 luglio con la prima seduta del Consiglio Comunale. Problemuccio invece a Torino, primo problema per Chiara Appendino, ed è questo, come racconta Diego Longhina, pagina 15 di Repubblica, ma la notizia c'è su tutti i giornali. Un assessore, si tratta di Federica Patti, insegnante, mamma di due bimbi, da anni attiva nel coordinamento dei genitori, futuro assessore alle risorse educative del Comune di Torino, si è scoperto che nel 2012 ha fatto quella che per Repubblica definisce una furbizia. Questa almeno l'accusa, che rimbalza, respinge al mittente le accuse la futura assessore. Ma l'accusa è questa: nella dichiarazione ISEE per compilare e mandare la figlia al nido non aveva dichiarato di convivere con il compagno, e questo dunque le ha garantito uno sconto appunto sulla retta da pagare all'asilo nido. 4 anni fa, racconta Repubblica, la Patti abitava in un alloggio col compagno e due bimbi, pur risultando residente in un altro appartamento che si è poi scoperto successivamente grazie ai riscontri fatti al settore tributi e scuola del comune. Per la verità l'assessore in pectore dice: ma che furbetta, è tutto falso, semmai mi sono impegnata per risolvere un problema legato al caso non raro di genitori conviventi con residenze diverse ma con lo stesso domicilio contemplato nella domanda di accesso ai nidi e alle materne. Insomma, com'è, come non è, è una prima polemica politica. Su Roma invece, appunto, a parte le nomine che tardano un po' per completare la giunta, scoppia un caso secondo la stampa, Jacopo Iacoboni, e cioè il caso della nomina del capo di gabinetto Frongia, ex consigliere comunale, e secondo alcuni sarebbe una violazione della norma Severino, perché è un ex consigliere comunale che si occupa di un ruolo dirigenziale nel comune, ma in realtà raccontano altri giornali che il sindaco Virginia Raggi ha chiesto un parere a Raffaele Cantone all'ANAC, ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato, ha ricevuto da entrambi parere positivo sulla possibile nomina di Frongia a capo di gabinetto, e dunque a quel punto, con i due pareri positivi, ha proceduto a fare questa nomina. Dicevo invece l'altra questione politica riguarda Berlusconi. C'è un'intervista con Faloniero, meglio un dialogo tra Luca Ubaldeschi sulla Stampa e l'amico di una vita, con Falonieri, che dice a Berlusconi, dà dei consigli, e i consigli sono questi, udite udite: Berlusconi torni in politica e aiuti Renzi. Intanto parla dell'operazione, dice: è stata un'operazione molto dura, immaginate essere squartati per un intervento al cuore, però è andata bene, la ripresa è incoraggiante. Fa una critica al cosiddetto cerchio magico, hanno abusato delle forze di Silvio facendogli fare comizi anche quando aveva già problemi alla valvola mitralica. Però poi dice: torni e faccia un po' come il nostro CT della Nazionale Conte, cioè deve fare il coach e come deve comportarsi, dove deve portare la nuova Forza Italia. Con Falonieri non ha dubbi, credo che in questa fase si debba sostenere il governo. Il Cavaliere non la pensa così, ma io sarei per qualcosa che somigli al Nazareno, anche perché oggi governare è diventata un'impresa complicata, come districarsi nel labirinto di Creta. Chi vota 5 Stelle, dice con Falonieri, o auspica collaborazioni con loro, ha letto i programmi che hanno? Penso al reddito di cittadinanza, agli aumenti automatici di tasse che servirebbero per finanziarlo. È un programma dirigistico e totalitario. E dunque con Falonieri dice invece: Berlusconi aiuti Renzi. Chissà se lo ascolterà, non si sa, Berlusconi è ancora in ospedale. Oh, intanto in politica c'è un assessore, un senatore, signori, che non riesce a dimettersi. Questo è uno dei casi, ogni tanto capita nei parlamenti italiani. È l'odissea del senatore Giuseppe Vacciano, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle nel gruppo misto e per 3 volte ha chiesto di dimettersi, ma per dimettersi dal Senato, come dalla Camera, ci vuole una votazione a maggioranza dell'Aula. E quando vengono poste le dimissioni in Aula, l'aula le respinge, è già successo 2 volte, oggi ci sarà la terza volta, la terza votazione per le dimissioni di Giuseppe Vacciano, lo racconta il Corriere a pagina 19. Ci saranno queste dimissioni, chi lo sa, lui vuole andarsene dal Senato, ma è lì, prigioniero in Senato. Vi segnalo anche, in conclusione, una intervista di Roberto Mania all'amministratore delegato di McDonald's Italia. C'è la diatriba con Firenze: a Firenze non vogliono il McDonald's in Piazza del Duomo. Lui dice e fa capire c'è la possibilità di fare causa, è molto duro col sindaco di Firenze Nardella, dice: fortunatamente non lo ascolta nessuno, è ininfluente. No, in questo periodo Nardella è influente, certo, su Firenze, ma in questo periodo è influente anche perché molti fiorentini lavorano temporaneamente a Roma, non le manda dire l'amministratore delegato di McDonald's Italia Roberto Masi, che poi annuncia: apriremo i primi casual restaurant, cioè dei veri e propri ristoranti col servizio al tavolo, sempre marchio McDonald's. Ovviamente non è il nostro obiettivo conquistare le stelle di Michelin, ma avremo ristoranti con servizio al tavolo in Italia. I nostri primi veri ristoranti, così a pagina 20 di Repubblica. Eccoci qua, siamo però alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ci siamo, lo faccio vedere anche in diretta Facebook, sulla mia pagina, sul mio profilo pubblico di Facebook. C'è la partita sabato, sì, ebbene, il direttore degli Uffizi fa sapere che lui terrà l'Italia. C'è un piccolo particolare, che il direttore degli Uffizi di Firenze è tedesco, Heike Schmidt, ma lui dice: io terrò Italia. Ma chi se ne frega!